la luce. Vedi com'è stare con me. Agile quando mille pensieri saltellano tra le vite reti ammassate, sembra friggere la paura nella padella della luna. Stare con me. Vorresti imprecare, ma l'odio brucia la tua voce. Vedi com'è.